Il terzo anello, ad alta voce, La montagna incantata di Thomas Mann. Introduzione di Enzo Muzzi. Thomas Mann ha scritto La montagna incantata nel 1924. Il fragore della Grande Guerra, quella del 15-18, non era del tutto sopito e già nuove violenze agitavano l'Europa, mettendo in pericolo la pace appena conquistata e anche l'equilibrio democratico all'interno delle società civili. A Oriente, un nuovo totalitarismo aveva infettato la sterminata terra russa e altre forme di fanatismo dispotico minacciavano l'area centro-meridionale dell'Europa. Il fascismo in Italia, il nazismo in Germania e il franchismo in Spagna. In questo quadro, Thomas Mann colloca il suo romanzo di formazione. Questo è un genere di cui la lingua tedesca, per mano di Goethe, aveva consegnato alla letteratura mondiale un modello esemplare, gli anni del noviziato di Guglielmo Meister. Se nell'opera di Goethe la molla che proietta il protagonista fuori dal mondo dei commerci quotidiani è la passione per il teatro, nel romanzo di Thomas Mann il giovane ingegnere Giovanni Castorp è rapito nei labirinti dell'anima dalla malattia. Egli infatti nel pieno dell'estate lascia Amburgo per una breve vacanza da trascorrere a Davos in visita a suo cugino il tenente Joachim Zimzen, ricoverato in sanatorio. La vera dimensione del viaggio non è però orizzontale dalla Germania alla Svizzera, bensì verticale dalla pianura alla montagna, dal basso all'alto, dal laggiù al quassù. Accade così che quel breve soggiorno di 3 settimane, concepito per regalare un po' di calore familiare a un amico, si trasformi in un esilio di 7 anni e mezzo. Prova eccitante, anche se dolorosa, necessaria comunque a Giovanni Castorp, anche lui potremmo chiamarlo Hans Castorp, per affrontare i temi centrali dell'esistenza, senza lasciarsi stordire dai tanti falsi scopi che la vita di pianura, la vita senza il filtro purificatore dell'anima, non si stanca mai di offrire ai suoi appiattiti abitanti. Prendendomi la licenza di parlare in prima persona, devo confessare che ho contratto un doppio debito nei confronti della montagna incantata. Da ventenne ho rubato a Giovanni Castorp, oltre alla donna amata, anche il suo mentore, Ludovico Settembrini, a farmi da tutore. Infatti, quando la generosità giovanile mi allontanò dal versante liberale del Partito d'Azione per incanalarmi nel sogno socialcomunista, ogni volta che le sollecitazioni della fede prevalevano sugli argomenti politici, a darmi una mano per dire no al sogno della dittatura rivoluzionaria, c'era anche lui, l'umanista, sempre pronto a scendere in campo con le armi della ragione per sbarrare la strada al terrorismo di nafta. Insomma, è strano, ma è proprio così. Più che un bel libro, Der Zauberberg è un romanzo, il quale, a 80 anni dalla sua nascita, parla anche del mondo di oggi. Forse perché anche oggi, come allora, il mondo si prepara a indossare la veste di un secolo nuovo. Allora era il 900, oggi è il 2000. Thank you. Un semplice giovanotto era partito nel colmo dell'estate da Amburgo, sua città natale, per Davos Platz, nel canton Grigioni. Andava in visita per 3 settimane. Hans Castorp, così si chiamava il giovane, con una valigetta di coccodrillo, dono del suo tutore e zio, il console Tinappel, per dire subito anche questo nome, col suo cappotto invernale che oscillava appeso a un gancio e la coperta da viaggio arrotolata, si trovava solo sui cuscini di un piccolo compartimento. Teneva il finestrino aperto e siccome il pomeriggio si faceva sempre più fresco, il figlio di papà, delicatuzzo com'era, aveva alzato il bavero del soprabito estivo, ampio secondo la moda, e foderato di seta. Sul sedile accanto a lui c'era un libro in brossura, intitolato Ocean Steamships, che al principio del viaggio egli aveva ogni tanto compulsato. Ora invece stava là, trascurato, mentre l'invadente respiro della locomotiva ansimante ne insudiciava la custodia con bruscoli di carbone. Fino al giorno prima, Hans Castorp era stato immerso nella solita cerchia di pensieri. Aveva riflettuto sul recente passato, sul suo esame e sull'immediato futuro, sul suo ingresso come praticante nella ditta Thunder & Wilms, cantiere navale, fabbrica di macchine e produzione di caldaie, e aveva sorvolato su quelle 3 prossime settimane con quel tanto di impazienza che il suo carattere consentiva. Ora però gli pareva che le circostanze richiedessero tutta la sua attenzione e non fosse lecito prenderle sotto gamba. Quel sentirsi sollevato in regioni nelle quali non aveva mai respirato, dove, come sapeva, regnavano condizioni di vita del tutto insolite, specificamente scarne e rarefatte, cominciò a eccitarlo, a mettergli addosso una certa ansietà. La sua casa, la vita ordinata, erano non solo assai lontane, ma anzitutto molti metri più in basso di lui, che ancora continuava a salire. Sospeso fra quelle e l'ignoto, si domandava come se la sarebbe passata lassù. Guardò dal finestrino grandiosi e vasti panorami di quel sacro fantasmagorico mondo di vette che è l'alta montagna, nel quale si stava salendo e entrando si aprivano all'occhio riverente e alle svolte andavano di nuovo perduti. Castorp considerò che aveva lasciato sotto di sé la zona degli alberi da fronda, probabilmente anche quella degli uccelli canori, e questa idea del cessare e dell'impoverirsi fece sì che, preso da un leggero capogiro e malessere, si coprisse gli occhi per 2 secondi. Il turbamento passò ed egli notò che la salita era al termine, il valico superato. Sul fondo valle pianeggiante il treno procedeva più spedito. Erano circa le 8. Il giorno prevaleva ancora. Nel paesaggio lontano apparve un lago. Lo specchio era grigio e neri boschi di abeti montavano dalle rive sulle alture circostanti. Più su si andavano diradando, si perdevano e lasciavano dietro di sé le rocce brulle e grigiastre. Il treno si fermò a una piccola stazione. Era Davosdorf, come Castorp udì annunciare. Tra poco sarebbe arrivato a destinazione. A un tratto sentì accanto a sé la voce di Joachim Zimsen, la calma voce amburghese di suo cugino che diceva: «Ehi tu, buongiorno, scendi pure!» E come si sporse, vide sotto il finestrino Joachim in persona sul marciapiede, in holster marrone a capo scoperto, con una cera sana come non mai in vita sua. Rideva e ripeté: «Scendi pure, non far complimenti!» «Ma non sono ancora arrivato!» obiettò Castorp confuso, rimanendo seduto. «Sì che sei arrivato, questo è Dorf. Di qui è più breve per il sanatorio. Ho la carrozza, dammi la roba.» E ridendo, confuso, agitato per l'arrivo e per l'incontro, Castorp gli porse dal finestrino la valigetta e il cappotto, la coperta arrotolata intorno al bastone e all'ombrello e infine anche l'Ocean Steamships. Poi infilò di corsa il corridoio e saltò sul marciapiede per salutare davvero e per così dire soltanto ora di persona il cugino. Saluto che fu senza effusioni, come tra persone di modi freddi e riservati. È strano a dirsi, ma sempre avevano evitato di chiamarsi per nome, unicamente per timore di una eccessiva cordialità. Siccome però non era il caso di chiamarsi col cognome, si limitavano al tu. Era tra i due cugini una consuetudine radicata. Joachim era più alto e più grosso di lui. Il ritratto della forza giovanile, quasi fatto apposta per portare la divisa. Era di quel tipo molto bruno che la sua bionda patria non di rado produce, e la pelle del viso già scura aveva preso in seguito alle scottature quasi il colore del bronzo. Con quegli occhioni neri e quei baffetti scuri sopra la bocca tumida ben formata, sarebbe stato persino bello se non avesse avuto le orecchie sporgenti. Erano state il suo unico dispiacere e dolore nella vita fino a un certo momento. Ora aveva da pensare ad altro. Castorp continuò: «Scenderai subito con me, no? Non vedo proprio nessun ostacolo.» «Subito con te?» esclamò il cugino, e gli rivolse i grandi occhi che, sempre così dolci, in quei 5 mesi avevano assunto un'espressione stanca, persino triste. «Subito quando?» «Beh, fra 3 settimane.» «Ho capito. Tu pensi già di ritornartene a casa?» rispose Joachim. «Aspetta, aspetta, sei appena arrivato. Certo, per noi quassù 3 settimane non sono niente, ma per te che sei venuto in visita e conti di restare soltanto 3 settimane, per te sono un cumulo di tempo. Prima ti devi assuefare al clima, che non è tanto facile, vedrai. Il clima poi non è la sola cosa singolare qui da noi. Qui, sta attento, vedrai parecchie novità. E quello che dici di me non va così per le spicce. Fra 3 settimane a casa, vedi, sono idee di laggiù. Sono abbronzato, è vero, ma sono in massima parte le scottature della neve. E non conta molto. Lo dice sempre anche Behrens. E all'ultima visita generale ha detto che sì, ci vorranno ancora 6 mesi. 6 mesi? Sei matto? Esclamò Castorp. Davanti all'edificio della stazione, che non era molto più di una tettoia, si erano appunto accomodati nella carrozzella gialla che li aspettava sullo spiazzo sassoso. E mentre i due sauri si mettevano a tirare, Castorp si agitava indignato sul duro cuscino. 6 mesi? Ma sono quasi 6 mesi che sei qui! Non abbiamo tanto tempo! È il tempo, ripeté Joachim annuendo più volte e guardando davanti a sé senza badare alla sincera indignazione del cugino. Qui ti manipolano il tempo altrui come non puoi immaginare. Per loro 3 settimane sono un giorno. Vedrai, tutte cose che avrai modo di imparare. Qui si mutano i propri concetti, disse. Hans Castorp lo osservava continuamente, di fianco. Per un tratto avevano seguito la strada tracciata irregolarmente parallela alla ferrovia, lungo l'asse della valle. Avevano poi attraversato a sinistra il binario ridotto e sorpassato un corso d'acqua. E ora trottavano piano per una strada in salita verso pendii boscosi, dove su una terrazza erbosa sorgeva un largo edificio, con una torre a cupola e la facciata verso sud-ovest, che da lontano, così ricca di logge e balconate, appariva bucata e porosa, come una spugna. In quel momento vi si accendevano le prime luci. Imbruniva rapidamente, e nella natura regnava quello stato di transizione, scialbo, esanime, triste, che precede l'immediato calare della notte. La valle popolata, lunga, distesa e un po' curva, si illuminò dappertutto. Sullo sfondo, e qua e là sui due versanti, specialmente sul destro, più esteso, a terrazze, sulle quali sorgevano le costruzioni. A sinistra i sentieri salivano sui pendii prativi e si perdevano nel nero cupo dei boschi di conifere. Le quinte dei monti più lontani, verso lo sbocco dove la valle si restringeva, erano di un freddo azzurro ardesia. Siccome si era levato il vento, il fresco della sera si faceva sentire. No, a dire il vero non mi sembra poi tanto imponente, disse Castorp. Dove sono i ghiacciai, i nevai, i solenni giganti della montagna? Questi cosi non sono neanche molto alti, mi sembra. Oh, alti sono, obiettò Joachim. Tu vedi quasi dappertutto il limite della vegetazione arborea. È segnata in modo netto e visibile. Gli abeti cessano, e così tutto cessa. È finita. Rocce, come puoi osservare. Là in fondo, a destra dello Schwarzhorn, di quel pinnacolo là, trovi persino un ghiacciaio. Vedi ancora l'azzurro? Non è grande, ma è pur sempre un ghiacciaio come si deve. Il ghiacciaio di Scaletta. Anche il Piz Michel e il Tinzerhorn, nell'intervallo, di cui non li puoi vedere, sono sempre coperti di neve, tutto l'anno. Neve eterna, commentò Hans Castorp. Sì, eterna se vuoi. Eh sì, l'altezza c'è, ma noi stessi devi considerare siamo paurosamente in alto, 1600 metri sopra il livello del mare. Perciò le alture hanno minor risalto. È stata infatti una bella arrampicata. Ti posso dire che ho avuto paura. 1600 metri. Sarebbero, se ho fatto bene il conto, presso poco 5000 piedi. In vita mia non ero mai salito così in alto. E per curiosità, Castorp prese come assaggio un profondo respiro di quell'aria ignota. Era fresca. E basta. Era priva di profumo, di contenuto, di umidità. Entrava con facilità e all'anima non diceva nulla. Squisita, osservò cortesemente. Sì, è un'aria famosa. Questa sera però la regione non si presenta bene. Certe volte ha un aspetto migliore, specie con la neve. Ma ci si stanca di guardarla. Noi quassù, credi a me, ne siamo tutti indicibilmente stanchi, affermò Joachim torcendo le labbra, con un'espressione di nausea che parve esagerata e incontrollata, e questo non gli donava. Tu parli in modo così strano, insinuò Castorp. Parlo in modo strano, ripeté Joachim con una certa apprensione, rivolgendosi verso il cugino. No, no, scusa, mi è parso solo un momento, si affrettò a dire Castorp, ma aveva alluso alle parole «noi quassù», che Joachim aveva pronunciate già per la terza o quarta volta, e a lui erano sembrate in qualche modo deprimenti e singolari. «Il nostro sanatorio, come vedi, è ancora più in alto del paese», aggiunse Joachim. 50 metri. Nell'opuscolo pubblicitario si legge 100, ma sono soltanto 50. Più in alto di tutti è il sanatorio Schatzalp, lassù, di cui non si vede. D'inverno quelli devono far scendere le loro salme con la guida slitta, perché le strade non sono transitabili. Le loro salme? Ah già! Ma via! Esclamò Castorp, e a un tratto si mise a ridere, di un riso violento, irresistibile, che gli scoteva il petto e gli atteggiò il viso, un po' rigido per il vento freddo, a una smorfia, un tantino dolorosa. Con la guida slitta! E me lo dici così, calmo calmo! Sei proprio diventato cinico in questi 5 mesi. Niente affatto cinico, ribatté Joachim scrollando le spalle. Perché mai? Per le salme è indifferente. D'altro canto può anche darsi che qui da noi si diventi cinici. Lo stesso Behrens è un vecchio cinico di questo genere, un magnifico tipo però. Già studente battagliero e poi brillante chirurgo, a quanto pare. Ti piacerà. C'è poi Krokowski, l'assistente, esemplare sveglio e accorto. Nell'opuscolo si fa cenno della sua attività in modo specifico. Coi pazienti fa analisi dell'anima. Cosa fa? Analisi dell'anima? Ma è ripugnante! Esclamò Hans Castorp, la cui allegria aumentò ancora. Non riusciva più a dominarla. Oltre a tutto il resto, l'analisi dell'anima lo aveva soggiogato. E ora rideva tanto che le lacrime le sgorgavano di sotto alla mano, con la quale, sporgendosi in avanti, si copriva gli occhi. Joachim a sua volta rise di cuore, pareva gli facesse bene. Sicché i due giovani scesero di ottimo umore dalla carrozza, che nell'ultimo tratto, a passo d'uomo, per ripide svolte della salita, li aveva portati davanti all'ingresso del sanatorio internazionale Berghof. Thank you.